insomma è ancora abbastanza nebuloso il panorama, non è chiaro come troveranno questi soldi, probabilmente ci saranno dei tagli ulteriori ai ministeri attraverso la pratica appunto dei tagli lineari, probabilmente dei tagli alla sanità, cioè dei tagli all'aumento previsto della spesa sanitaria che è indispensabile per far fronte alle necessità crescenti che il nostro sistema ha, e poi credo che ci saranno delle una tanto insomma per recuperare delle risorse, però il quadro è ancora molto nebuloso, quindi non si possono fare delle previsioni, ma non ci sono sicuramente certezze. Però insomma abbiamo visto nelle settimane, nei mesi scorsi, dei problemi anche col deficit, col debito. A cosa sono dovuti? La spesa è cresciuta come è cresciuta in tanti altri paesi per far fronte alla pandemia, diciamo, negli anni della pandemia. Poi non è più tornata giù, o è tornata giù diciamo di poco. Nel frattempo è stato riformato il patto di stabilità e quindi questo prevede delle nuove regole, delle regole aggiornate rispetto al vecchio patto, e quindi l'Italia in 7 anni dovrebbe rientrare in parte del debito accumulato. Si parla in 7 anni di circa di 13 miliardi l'anno, cioè l'Italia ogni anno deve trovare 13 miliardi per abbattere lo stock di debito, secondo quanto previsto dalle nuove regole del patto di stabilità. Trovare 13 miliardi all'anno non è semplice, si parla di introiti dalle privatizzazioni, cioè dalla vendita delle quote del tesoro di Enel, Eni, Poste e quant'altro, Monte dei Paschi, insomma dove il tesoro ha delle quote, ma questi soldi non basteranno, nel senso che comunque anche le privatizzazioni possono far fronte solamente a una piccola parte di questa, diciamo, di questa esigenza, anzi di questo obbligo che l'Italia ha per rispettare appunto il patto di stabilità. C'è il tema delle pensioni, potrebbero esserci diciamo dei ritocchi alle riforme già fatte per fare cassa con la previdenza, però diciamo questo è un problema che riguarda non solo l'Italia ma riguarda anche altri paesi, per cui la Francia, la Grecia e la Spagna, e quindi è un tema che riguarda circa un terzo dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea, perché hanno un debito eccessivo e quindi devono trovare delle forme per ridurre il debito o in 4 o in 7 anni. L'Italia ha scelto la formula dei 7 anni giustificandola con le riforme che sta portando avanti, che ha approvato e che dovrà approvare diciamo per migliorare la produttività e l'efficienza del sistema economico del nostro paese. Il riarmo, l'aumento della spesa militare generalizzato un po' in Europa ha gioca un ruolo in questa situazione? Beh sì, nel senso che ovviamente la spesa pubblica cresce anche perché crescono le spese militari, quindi abbiamo in Italia un aumento medio di circa il 3-4%, alcuni anni anche il 7-8%, in altri paesi sta succedendo lo stesso, e quindi questo è sicuramente un tema che va posto, nel senso che la spesa aumenta non perché migliora l'istruzione, migliora la sanità, ma perché si spendono più soldi per le armi, si fa più debito per ad esempio fare il ponte sullo stretto che costa 14 miliardi e altre spese che noi non possiamo condividere. Ogni anno Sbilanciamo ci presenta una contromanovra, ovviamente aspetteremo l'elaborazione anche di quella di quest'anno, però rispetto alla ricetta di privatizzazione e tagli si potrebbe cambiare approccio? Ma sì, nel senso che servirebbe, come si dire, una vera spending review, cioè una riduzione della spesa, dove colpire le spese inutili che per noi sono gli aumenti delle spese militari, le spese del ponte sullo stretto e tante altre spese che si fanno. Bisognerebbe investire di più nel capitale umano, nel capitale sociale, e pensare che è questo, che la spesa può diminuire in due modi, o tagli o cresci, e se tagli sei costretto a tagliare sempre diciamo tra i soliti noti. Se cresci questo ti dà la possibilità di ridurre il debito, perché se aumentano le entrate ovviamente le spese in percentuale diminuiscono, insomma, e quindi questo però si fa se fai investimenti, se fai una politica espansiva, se fai una politica non di tagli, non di austerità, ma una politica appunto di rilancio dell'economia.